Eccoci qua, siamo in ritardissimo, ma ci siamo. Gatte in fuga, ma non eravamo. Sì, non eravamo scappate, c'eravamo, ma oggi è stata una domenica complicata, direi. Domenica 3 giugno, caratterizzata da tante cose, tante iniziative, inchiostri ribelli. Poi c'era la giornata in Santa Croce per ricordare un anno dalla scomparsa di Lorenzo. Quindi, insomma, eravamo un po'. Le gatte vostre erano un po' in giro a fare cose importanti. E quindi eccoci che però finalmente adesso ci possiamo rilassare qui in radio con un po' di musica classica. Sì, anche se te secondo me ti si sente. Prova. Come al solito, sì. Sì, che ti si sente. Mai. Allora, quindi. Giura questa cosa del microfono, io comincio a pensare. È palesemente un sabotaggio. Cioè, è un sabotaggio. È evidente. Chi me lo cosa, vabbè. Sì, sì, sì, qui ci saranno Wombat che... Mi spiace, parte un'inchiesta, Wombat, chi cavolo spenge il microfono dove sta seduta la Virgil? O me proprio è così, sarà una nuova... Risse tra Wombat... Sì, sì, sì, che ultimamente vanno di moda. E così, tra ciuffi di pelo e risse tra Wombat e gatti, vincono i gatti, ve lo dico già ora. Niente, oggi abbiamo la seconda puntata di... della fuga del gatto, cominciata con l'altra domenica, se non sbaglio, con il rapporto tra la letteratura e la musica classica. Quindi avevamo diviso in due parti, in due tranche, questo argomento, perché e ci sarebbe in realtà quindi, da farne una serie, magari poi continueremo, però per adesso questa è la parte rimanente, appunto, che non avevamo avuto tempo di esaudire nell'altra puntata, e quindi insomma ci sono rimaste diverse cose da dire e speriamo che vi interessino, e se no problemi vostri. Se no vi interesseranno. Allora sì, iniziamo, ci abbiamo una bella puntatina, iniziamo subito da le robette più antiche, ovvero da Purcell, perché Purcell qui, vabbè, in realtà si ritorna un po' indietro, ovvero ritorniamo un po' a Shakespeare. Abbiamo parlato e fatto una lunga puntata, no, due lunghe puntate, due su Shakespeare e sulle ispirazioni che ha dato, vabbè, e veramente anche lì, anche soltanto su Shakespeare ce n'era milioni da dire, ma Purcell ovviamente è un musicista che è stato influenzato tantissimo da Shakespeare, e beh, oltretutto non è che era passato tanto, quindi insomma si potrebbe dire quasi contemporaneo. È quindi uno dei primi, sì, che l'ha... Sì, l'ha un po' indagato. E una delle... l'altra volta mi sembra sarà parlato della regina delle fate, di sì, Fairy Queen, sì. Però in realtà questa volta non volevo parlare di questo, ma faremo sentire un'area tratta dalla Tempesta, The Tempest, che è un'altra opera di Purcell, appunto, e che anche qui sì, non è proprio esattamente filologico alla Tempesta, ma insomma è sicuramente e ovviamente ispirato a partire dal titolo e tutto il resto. E quindi l'area che vi facciamo sentire è l'area di Anfitrite. Le musiche in realtà sono attribuite appunto a questo grandissimo compositore inglese che è Purcell, ma però c'è un po' di dubbi che siano state scritte effettivamente da lui, anche se sono molto molto molto belle e secondo me insomma ci sta, però io nulla ne so, vedremo, insomma mi affido a quello che dicono i filologi. Vabbè. Però ecco, probabilmente erano scritte, cioè un'altra teoria vuole che fossero scritte dal meno noto John Weldon, ad eccezione di un'area, l'area di Miranda, chiamata Dear Pretty Youth, che è sicuramente quella è stata scritta da Purcell. Il resto diciamo che ci sono un po' di dubbi. Noi per non fare la testa al Wombat. Esatto, per non fare torto a nessuno, comunque facciamo sentire un'altra area, che è l'area di Anfitrite, appunto. La Tempesta, il protagonista è il mago Prospero, la storia ora non la stiamo a raccontare, se no si fa notte. Dobbiamo raccontare la storia della Tempesta, ragazzi, qui c'è qualche problema. Esatto. Di base, cioè, non dovremmo. E quindi diamo per scontato che lo sapete, e in ogni caso ora vi ascolterete un pezzetto che è subito l'area di Anfitrite, appunto Alcyon Days, Now Wars Are Ending. Thank you. E con questo direi che ci siamo rilassati, no? Cioè, proprio le wombattesse si sono un attimo. Divano, e altro che tempesta. No, allora, io però vorrei fare un saluto alla nostra Marg, che è l'unica veramente che ci vuole bene, ci considera, e che ci sta ascoltando in diretta, tornando dal mare, ci fa sempre un sacco di complimenti e noi li prendiamo volentieri, perché grazie, Marg, ti vogliamo bene. Beata lei che va al mare, che te devo dire. Poverina, ci riesce. E allora, quindi, però dobbiamo andare avanti, giusto? E basta con queste musichette rilassanti. Arriviamo ora a qualcosa di decisamente più movimentato. E arriviamo a, anche qui, qualcosa... Beh, no, in realtà non ne avevamo già parlato, però un po' l'avevamo sfiorato, perché torniamo su Bizet. Eccoci. È qui... L'Arlesienne. Mi casca l'asino. Sì, allora, volli fortissimamente volli questo pezzo, perché, allora, innanzitutto perché l'Arlesienne non è conosciuta come la Carmen o come dai più, perché poi per un po' esperti è comunque conosciutissima. Però diciamo che rispetto alla Carmen, rispetto ad altri lavori di Bizet, non è proprio la più famosa. Però è veramente a me piace tantissimo e devo dire che in questo caso cascava un po' a fagiolo, perché... Oddio, quando dici fagiolo, guarda. Fagiolo, ti piace il fagiolo? Molto. Ecco, cascava a fagiolo perché, come dire, il rapporto con la letteratura qui diventa veramente stretto, un po' come lo era stato per la Carmen sempre, quindi Bizet evidentemente amava, prediligeva o comunque gli capitava di così accostarsi alla letteratura per l'ispirazione dei suoi lavori. Lo fa un'altra volta qui con l'Arlésienne, che è tratta da un racconto di Alphonse Daudet, che è stato un grandissimo romanziere e scrittore della generazione di Zola francese. Ora su Daudet non apro il capitolo, perché potremmo andare avanti molto, però ci sono delle cose interessanti da dire sull'Arlésienne, perché questa jouer l'Arlésienne, cioè recitare l'arlesiana, è un'espressione francese che significa essere il soggetto di tutte le conversazioni senza mostrarsi mai, cioè è diventato proprio un detto della lingua. Bello, mi piace questo detto. Qui bruschette, attenzione, perché oggi scendiamo in campo, perché... Leggevo che appunto può analogamente rinviare ad una persona o ad un'azione che si attende e non arriva mai, quindi un attendango do, diciamo, e quindi altro riferimento, se vogliamo, vabbè, oggi proprio incrociati. di Beckett. Allora, quindi questa espressione ha come origine appunto l'Arlésienne. Sembra che l'origine sia appunto l'Arlésienne, uno dei racconti di Daudet, recensito appunto all'interno delle Lettres de Mon Boulin. Cioè, qui dicono recensito, in realtà credo che intendano che fa parte, insomma, delle Lettres de Mon Boulin. Alphonse Daudet, come vi dicevo, era nato a Nîmes, che è una cittadina nel sud della Francia. Si trasferisce però presto a Parigi per favorire la sua carriera letteraria e non nasconde mai le sue origini provenzali. Non ve lo dico a caso, è importante, perché i suoi racconti, tutta la sua letteratura è impregnata di questa provenienza, di questa sua nascita, di questa sua appunto appartenenza alla zona della Provenza, con tutti i suoi colori, atmosfere, no? Molto specifiche, molto particolari, che si riversano poi nell'arte, come è successo a molti artisti prima di lui, pittori, magari artisti figurativi, appunto, per cui è più facile renderlo, però insomma anche per lui era così. E scrive questi racconti e dei romanzi imbevuti di un sapore, di una rodezza fortemente provenzale, appunto, no? La Provenza ha questo immaginario molto, molto bucolico, però è anche molto, no? È comunque una campagna, quindi lasciamo fare cosa è diventata una zona per i ricchi ormai, però diciamo in origine, no? Nei secoli passati era comunque una provincia, era una parte lontana da Parigi, lontana da Lille, no? In cui si andava magari per prendere il fresco, per andare al mare, però non era ancora fino alla fine dell'Ottocento, non era la Provenza come la intendiamo oggi. Di moda, diciamo. Di moda, sì, era di moda, era perché comunque era una località vacanziera, però non era ovviamente concepita come oggi. Quindi uno di questi racconti, appunto l'Arlésienne, pubblicato nel 1866 nel giornale L'Environnement, attira particolarmente l'attenzione dei lettori ed ispira il compositore francese Georges Bizet per la sua opera omonima, creata invece nel 1872. Dallo stesso Alphonse Daudet ed Émile Zola. Quindi attenzione, c'è Alphonse Daudet ed Émile Zola, cioè, creano proprio una versione dell'Arlésienne per Bizet, esplicitamente per Bizet. Quindi ne fanno una versione per il teatro, per adattarla all'opera musicale. La particolarità di questo racconto viene dal fatto che l'arlesiana, giovane seduttrice abitante della città di Arles, non appare mai, pur stando al centro dell'intrigo. Jeanne, un giovane paesano provenzale, si imbatte in questa ragazza durante una passeggiata sulla Lys d'Arles. Pazzo d'amore, decide di sposarla senza attendere più. Ma ecco che durante la festa di fidanzamento un uomo si avvicina al padre di Jeanne per avvertirlo che suo figlio è sul punto di sposare un'impostora. Aha! Il matrimonio non avrà dunque luogo e Jeanne, oppresso dalla passione e dalla disperazione, si suiciderà sotto gli occhi della madre. Quindi allegria comunque in generale. Beh, Émile Zola e Daudet già ci dovevano dire che non sarà. Ma comunque, ma un'impostora di che, scusa? Ma questo aspetta, perché cioè, nel senso, no? È questo il punto, perché il punto è appunto che l'interesse persiste, no? nel mistero dell'Arlésienne, cioè questa eroina invisibile che spinge Daudet a scrivere una storia, un pezzo di teatro in tre atti ed un'opera, perché ne sono state tratte poi tantissime versioni dall'Arlésienne. Ora avevo letto la sinossi, però non, ovviamente ne è stato fatto varie versioni. Chi ispirò appunto Daudet il dramma dell'Arlesiana? Scoprivatelo, nel senso che non si è mai capito se lui si era ispirato a un fatto realmente accaduto in un paesino della Provenza o a una sua eroina immaginaria. Tu dici magari il figlio del lattaio. Capito? Perché successo. Lei non si vede mai, non c'è mai il suo punto di vista, capito? E questo è interessante, no? E quindi viene affidato a tutti quelli che riportano la voce, e però lei non esiste in realtà, almeno non nella versione di Daudet. Non ha voce in capitolo. Non ha troppo voce in capitolo. E quindi in realtà è una metafora, ovviamente, non è che ve lo devo dire io. Chiaramente è un vero, cioè chiaramente ora non sono sicura che si possa inserire, però come Zola, come Daudet è un verista, quello che noi si può intendere come verismo, no? Cioè una letteratura legata alla realtà sociale di un'epoca che però poi si macchia di elementi anche fantastici però per dare poi delle metafore che viaggiano sulla, sulla base di un realismo e poi si appoggiano al realismo. Non so se mi sono spiegata, se quello che ho detto ha un senso, forse no, quasi ma mai sì. Ce l'ha. Però l'Arlesienne è in realtà appunto è foriera di tantissimi tipi di opera. C'è stata fatta un'opera, appunto una commedia in tre atti, una, cioè è stata ripresa in tantissime tipologie di arte performativa. Quindi vuol dire che evidentemente insomma, ha ispirato molti librettisti, molti autori, molti registi. Nel nostro caso è un balletto, perché quello per Bizet sono di solito, almeno quello che ho sempre visto io, sono musiche per balletto. Non so se poi all'inizio erano musiche per una, anche per la musica di scena, però fondamentalmente sono una suite per balletto. A differenza, infatti di solito viene, io ce l'avevo nel CD insieme a Carmen aveva appunto la parte dell'opera lirica e l'Arlesienne era soltanto musicale. Ora non vorrei dire una castroneria, perché magari invece c'è una parte anche, una versione anche recitata, però fondamentalmente almeno quello che ho sempre visto io e quella che si trova è oppure è un'opera che ha delle parti di balletto, non lo so. Comunque la musica di Bizet è per balletto solitamente, o ha delle suite di balletto. Mi torna perché questa, il brano che ci ascoltiamo noi è una farandole, quindi effettivamente un brano musicale, scusate, un brano pensato per essere ballato. Esatto, quindi probabilmente sì. Daudet e Zola adattarono l'opera, il racconto al palcoscenico, ma in modo che si potesse fare anche senza l'opera lirica, senza il cantato. Sì, sì. Quindi, mi sembra plausibile. Perché hanno la diocesi, cioè hanno comunque la storia scritta. È chiaro. Non è che non ce l'hanno. È comunque una forma di un modo per raccontare una storia. Magari ci sarà stato anche, sicuramente dopo leggevo che c'erano state anche versioni teatrali, versioni proprio di prosa, ecco, da altri autori, addirittura un'opera lirica fu fatta. Quindi, insomma, ecco, leggevo un pezzo di teatro in tre atti, un'opera, insomma, ci ha avuto varie versioni. Poi magari una volta si fa una puntata sull'Arlesienne, perché è veramente splendida, cioè, veramente, veramente bella. E il balletto è stupendo, appunto, e c'ha sempre, quasi sempre, anche quando è contemporaneo, c'ha questi riferimenti alla Provenza, no? Anche un po' al ciclo della natura, se vogliamo, insomma, legato molto a... molto bello. Bene, sì. E quindi possiamo ascoltarcela, che dici? Sì, sì, non so in che versione ce l'abbiamo. Neanch'io, lo sa lei, lo scoprirete. Bene. Ecco, questa era l'Arlesian, giusto per ripigliarvi, no? Vi siete un po' rallegrati, ripresi. Vabbè, oh dai, l'Arlesian, Domenica pomeriggio, basta, ora è tardi, potete un po' ripigliarvi. Riposare, so, vi siete riposati. Salti, vabbè. Allora, quindi adesso proseguiamo su tutt'altro genere, arriviamo a Mussoschi. Al vecchio qui. Modest. Anche lì il Modesto, cioè, certo punto, l'avevamo già un po'. Vabbè, il Modesto è un po' una passione per noi. Ce l'eravamo già occupati. Sì, ce l'accogliamo quasi sempre. Come fai a evitare Mussoschi? Non si può, perché anche qui ci ritorna, ci rientra, anche in questa così special sulla letteratura e la musica classica. Mussoschi ci rientra sempre dalla finestra, perché una notte su Monte Calvo di Mussoschi, che abbiamo già fatto sentire in altre nostre puntate legata ad altri argomenti, per esempio quella su Fantasia, se non sbaglio. Sì, sì. Di Disney, cioè il famoso. Stiamo un po' riciclando un po' le cose che abbiamo già fatto. Cioè, sto ragazzi, guardando, cioè, c'ho la scaletta davanti. Ma qualche palla certa, insomma. A meno che non andiamo. Secondo me è meglio riciclare che cominciare ad andare sulla roba quella veramente hardcore, che non lo so se ve la collate. Brava, è un po' specifica. Scusiamoci, brava. Ecco. Quindi, che succede? Che la notte sul Monte Calvo. Come dire, è un poema sinfonico che ha vita strana, come spesso le cose di Mussoschi sono state cambiate, ereditate, fatte in altre versioni. Ecco, è capitato spesso a questo autore di essere poi così un po' redacted, non so, non censurato, però il materiale musicale sì, è stato spesso composto, cambiato, ripreso, orchestrato, adattato a più riprese nel corso degli anni, usato per occasioni diverse e con diversi titoli, quindi proprio ecco. Addirittura dopo la morte di Mussoschi, Rimsky-Korsakov, che stava sempre un po' nei paraggi, riprese l'ultima versione del poema sinfonico a cui Mussoschi stava lavorando nel momento della sua morte, e l'idea del titolo di Una notte sul Monte Calvo. Quindi addirittura qui ci entra Rimsky-Korsakov. Su Rimsky-Korsakov non ci siamo sdati tanto, magari. No, lo dovremmo fare. Diciamo che è un po' questa versione che è passata poi al pubblico. Però lui la modificò molto, leggevo che in più punti aggiunse e tolse battute, cambiò strutture armoniche, togliendo un po' di asperità, un po' di regolarità. Insomma, mi fece un po' il pompiere sto Rimsky-Korsakov. Comunque non è che proprio. Vabbè, la versione originale di Mussoschi venne scoperta in realtà solo nel 1968, e da allora è quella più eseguita, che ha un organico ampio, leggevo appunto ottavino, flauti, clarinetti, fagotti, corni, cornette, trombe, tromboni, timpani, triangolo, tamburelli, piatti gran cassa, quindi come sentite dall'organico, roba veramente. Si fa lavorare finalmente un po' di musicisti, altrimenti non vengono mai chiamati. Esatto. Il tema trattato da questo poema sinfonico è un po' un tema, diciamo, eterno, no? Lo scontro tra bene e il male. Nel contrasto tra la notte, dominata da creature diaboliche e anime dei defunti, sepolti in terra consacrata, e il giorno, il suono delle campane che riportano queste creature nelle viscere del Monte Calvo. Dice che forse era il monte Lisahora, che si trova in Ucraina, o il monte Triglav nella Russia meridionale. Lì comunque posticini allegri ce n'erano, quindi ci si buttava via. La partitura di Mussoschi riporta il seguente programma e la composizione: assemblea delle streghe, loro discorsi a chiacchiere, il corteo di Satana, messa nera, sabba e l'alba. E a lei. Ah, diciamo questo, perché qual è il collegamento con la letteratura? Infatti eravamo tutti qua che ci chiedevamo, lo so, perché Mussoschi non prende questo poema sinfonico da una opera specifica di letteratura, però in realtà si ispira. Banale sarebbe stato. Infatti, ispirandosi in realtà alla mitologia slava, immagino appunto questo sabba delle streghe ai piedi del Monte Calvo, creando questa partitura potente, piena di effetti, piena di fremiti e sussulti, che solo nel finale si trasforma in un'atmosfera pacata e serena. Diciamo questo. Allora sì, è vero che lui non si ispira a nessun testo preciso, però era anche l'unico di tutte queste testi che abbiamo citato, di tutte queste opere tratte da testi che abbiamo citato, e così che ci piaceva e ci interessava, che veniva dalle fiabe, un po' dalla tradizione orale, dalle fiabe. Quindi forse il collegamento alla letteratura non è proprio diretto, è un po' più lontano, però è importante, perché tantissimi compositori, soprattutto russi dell'Est Europa, slavi, avendo chiaramente forse tradizioni letterarie diverse rispetto magari a quelle più centroeuropee, spesso si ispirano o sono affascinati o rimangono, ma questo accade anche in altre forme d'arte. Baba Yaga, già, Soschi appunto, no? Nella sua quadri di un'esposizione ce l'aveva già mostrato questa cosa, cioè l'ispirazione dalle fiabe, dalla tradizione orale, però poi vengono anche trascritte, scritte, quindi alla fine, insomma, comunque non facciamo tanti sofistici, per favore, perché qui, ecco, la letteratura è un qualcosa di ampio. Esatto, ecco, non è che adesso quindi io ce l'ho voluto mettere. E poi autocitazione della fuga del gatto, perché La notte sul Monte Calvo ispirò il famoso episodio di Fantasia, per cui tutti la ricordano, stupendo, quello con la montagna che si trasforma nel diavolo, che mi faceva paurissimo quando ero piccola. Anche a me, però mi piaceva tanto, infatti si poteva capitare. Infatti, poi cose. Dopo, perché poi cos'era quello? Che quello era l'ultimo, in realtà, era il vero ultimo, perché l'ultimo era la messa di... non mi viene in questo momento, poi ve lo dirò, era una messa e tagliavi sempre, cioè stoppavi la cassetta dopo Mussoschi, perché la messa veramente era entrata potevi perché accorre. C'era l'Ave Maria di Schubert, alla fine non mi veniva l'Ave Maria di palle, è vero, era una palla con tutti sti nanetti bianchi, ma non lo so, c'era delle luci. Anche io mi ricordo bene cose strane, non lo so. È vero che tagliavi la videocassetta, stoppavi, certo, facevo basta, anch'io. Dopo Mussoschi era finita la vera fine di Fantasia, è Una notte sul Monte Calvo, il vero finale di Fantasia è Una notte sul Monte Calvo, signori. Va bene, quindi dopo aver riscritto la storia, anche oggi... Qui non lo nego e me lo rivendico. Ce l'ascoltiamo, perché sono 9 minuti e 45, quindi mettetevi comodi. Bisogna soffrire. E mettete il volume della vostra radio adeguatamente regolato, perché alti e bassi, all'inizio parte basso, poi alza, poi rabbassa, e però è fatta così, eh? Non siamo noi che non sappiamo usare il mixer, è così. Sentite, se non ci credete. Thank you. c'è ora? Ora vabbè che alti e bassi, però qui in effetti era finito. E qui si stoppava la cassetta. Eh sì, era finito. Sì. Allora adesso, dopo questa notte sul Monte Calvo, abbiamo, torniamo un po' a, perché sennò veramente ci stavamo un po' adagiando sullo strumentale, torniamo a qualcosa di canticchiato, canticchiato fino a un certo punto perché abbiamo la Callas. Ecco sì. Con la Lucia. E anche vostri la... voga su quello già fatto. Ma resta Lucia ultimamente. Ma quella è colpa mia perché viaggi della pimpa. Sono andata a New York, ho visto la Lucia. Anche la Lucia è la mia amica, la Luciona. La Luciona, Lucia. Lucia di Lammermoor. E allora ci siamo un po' flippati con questa Lucia di Lammermoor. E vi di voga. Vi si rivoga come se non ci fosse un domani. Per cui, qual è questo collegamento tra la Lucia di Lammermoor e la letteratura? Beh, di sicuro i suoi natali, l'avevamo già detto quando abbiamo parlato, la famosa puntata in due parti sulla Lucia di Lammermoor, che fate, ve la siete persa? No, perché se ve la siete persa ora non capite, vi sta bene, e invece ve la dovete andare a sentire. E non vi potete sentire il podcast, la seconda parte, perché mi sono dimenticata di metterlo. La Mari ha avuto un buio così. Mi sono autocensurato. Ha levato la seconda parte la Lucia di Lammermoor. E mi sono dimenticata. Che era quella un po' meglio, vabbè. Me la sono dimenticata, vabbè, si rimette. Si rimette. Per cui dicevamo, la Lucia di Lammermoor, sì, allora i suoi natali da Sir Walter Scott, perché la storia è, come sapevatelo, era tratta da in realtà non era proprio omonimo, aveva un altro nome, ma insomma un'idea, un romanzo di Sir Walter Scott. Dopodiché, che succede? Che la Lucia di Lammermoor ha veramente una citazione importante, perché viene citata nel molti romanzi, perché fu un grande successo, come abbiamo detto, no? Però soprattutto è citata nella Madame Bovary. E qui, vabbè, hola, perché? Ah, la Madame Bovary, che ve lo dica fa. Hanno fatto tutti lo stuporone a sì, casa. Oh, sì, sì, l'ho sentiti. Madame Bovary, perché in una scena di Madame Bovary, in un momento proprio piuttosto topico del romanzo, lei va al teatro, a Rouen, si reca al teatro nella città di Rouen, a vedere appunto la Lucia di Lammermoor. Che dire, allora, ora non vi accollo la lettura di questa parte, perché insomma insomma sarebbe lunga, però è interessante. Non si sa se sia auto, perché come sapete, no, diceva appunto l'autore Jésus Madame Bovary, cioè no, sì, ok, era una donna, però le esperienze, così la tutta la problematica, nascevano dal pensiero di Flaubert. Però quello che volevo dire era che non si sa se l'autore andò effettivamente a vedere questa Madame Bovary, questa versione, scusami, di Lucia di Lammermoor al teatro a Rouen, però si sa da biografi, da studi vari, che nel periodo in cui lui scrisse il romanzo c'era effettivamente, girava, c'erano varie tournée, varie versioni in tutta la Francia della Lucia di Lammermoor. Quindi ci sta proprio che, come dire, che fosse proprio autobiografico, cioè che fosse proprio un'esperienza che l'autore aveva fatto e che riportava e rimetteva nella sua arte, attribuendola alla sua eroina tragica. Io direi di fare una cosa, però facciamo sentire prima il pezzo e dopo vi racconto altro. D'accordo, il brano che abbiamo scelto è Verrà notte sull'Aure, quindi un duetto famoso duetto con il tenore, che è il suo innamorato, insomma, il suo... Quello che praticamente sì. La piglia in tasca. Qui la pigliano tutti in tasca, ma si è già detto perché... Maria Callas e Giuseppe Di Stefano, gli interpreti. Ooh. i sospiri ardenti udrai nel mar che mormora l'eco dei miei lamenti pensando ch'io di gemiti mi pasco e di spargi una mala lacrima su questo pegnallo, su questo pegnallo. Beh, sì, verranno a te sull'aure, questo è l'ultimo duetto che hanno insieme, poi si ritrovano in altri momenti musicali, però questo è proprio il duetto che hanno prima di separarsi. Allora, perché Emma Bovary può guidarci dentro l'opera di Donizetti? Ho trovato degli spunti, ricercando degli scritti, che mi sembravano pertinenti. Leggevo appunto, sono le pagine iniziali del capitolo quindicesimo, dalla seconda parte del celeberrimo romanzo di Flaubert, capitolo che non è solo uno snodo fondamentale nello svolgimento del dramma tutto privato e personale di Emma Bovary, ma è anche uno straordinario commento critico alla fortuna e alla storia della ricezione dell'opera donizettiana. Nel settembre del 1835 al Teatro San Carlo Lucia de Lammermoor iniziava la sua fortunatissima avventura divenendo in breve uno dei capolavori assoluti del melodramma romantico italiano. Qui scrive appunto questo autore, questo critico, e dice: credo che Emma Bovary con la sua privata, personale, piccola storia molto borghese possa essere, grazie a Flaubert, una guida importante nell'ascolto e nella visione dell'opera donizettiana. Io sono poco incline a credere che sia una storia privata e personale, credo invece sia molto rappresentativa di un'epoca, di una classe, ma che così Flaubert voleva che fosse. Comunque, diciamo che credo che una guida importante nell'ascolto e nella visione dell'opera donizettiana, una specie di spettatrice ideale che al di là del suo dramma ha molto da raccontarci su come funzionavano i meccanismi narrativi di un'opera lirica. E qui lui appunto parla della nascita di... come dicevo, dalla nascita di Lucia, dalla The Bride of Lammermoor di Walter Scott, io l'avevo già detto, e i romanzi appunto di Scott avevano dato origine a quest'opera e Flaubert la cita, la riprende perché è consapevole che, diciamo, quando sceglie Lucia di Lammermoor, Lucia è proprio un simbolo del definitivo dramma delle donne, come dire, è un po' simbolico, cioè lui non è un caso, cioè non è che era andata al teatro la sera prima e ha detto sai che ci metto Lucia di Lammermoor e ci potevo mettere Le nozze di Figaro, no, è chiaro, no, cioè lui sceglie Lucia di Lammermoor perché Lucia di Lammermoor è veramente una delle prime figure femminili, ma questo non ve lo ripeto perché l'abbiamo già detto nella puntata, un po' tutto tondo, un po' che si contrappone, volitiva, che nella tragedia però agisce, è attiva, no? Quindi, ecco, Flaubert sicuramente ne rimane colpito, ne rimane impressionato e diventa, cioè, Lucia di Lammermoor è proprio un archetipo che serve poi a spiegare anche la storia di, a fare da specchio alla storia di Emma Bovary. Quindi è legatissimo in questo senso alla letteratura. Quindi tornando al teatro di Rouen, giunti al duetto di Lucia Edgardo, che è proprio questo che abbiamo scelto noi, no? Tra l'altro, no, ma l'abbiamo fatto proprio apposta. Sì, sì, apposta. Torniamo nel teatro di Rouen, giunti al duetto di Lucia Edgardo, che chiude l'atto unico della prima parte. Verranno a te su laure. Nella sala scrosciano gli applausi. La scena finale viene ripetuta da capo. I due cantanti, appunto, parlando di fiori sulle tombe, giuramenti, fatalità, speranze, e lanciano l'addio finale. Emma Bovary getta un grido acuto che si confuse con la vibrazione degli ultimi accordi. Qui leggo proprio dal testo. Perché? Domandò Bovary. Quel signore la perseguita? Ma no, rispose lei, è il suo amante. Confessò del resto di non capire la storia per colpa della musica che non gli lasciava sentire le parole. Non importa, disse Emma, taci. Il povero Charles, marito, è doppiamente fuori gioco, non solo è completamente ignaro dei tormenti di Emma, ma ne capisce ben poco anche di opera lirica. Un po' scemo, eh? Charles era un po' così. Non è nell'intelligibilità del testo poetico che si gioca la comprensione e la ricezione dell'opera, ma nella coscienza dell'articolazione emotiva dei numeri musicali, della percezione dei differenti stati d'animo che accompagnano la struttura dei duetti, negli assiemi o nelle singole arie. Questa dialettica musicale, formale ed emotiva che Donizetti realizza in maniera assolutamente geniale proprio nella Lucia di Lammermoor, fa appunto da contrappunto perfetto a quello che Flaubert cerca di comunicare. Sottotesto, poveretto, certo, se non capisci neanche le basi. Charles, ti sta bene. Ma di che stiamo parlando? Pigliarti le corna, diciamo la verità. Le pagine di Flaubert che seguono e che accompagnano l'ascolto del celebre finale dell'atto secondo, in realtà poi atto primo della seconda parte, dove le vicende di Lucia, costretta a sposare un uomo che non ama, si intrecciano con la profonda infelicità di Emma, di nuovo ritorna, no? È proprio un contrappunto, cioè sembra proprio che Flaubert ha proprio seguito, no, la storia di Lucia per in maniera anche piuttosto scoperta, insomma, è una grande metafora. Quelli sono al teatro, vedono Lucia e la storia e Emma si rivede. Praticamente ha copiato, diciamocelo. È un po' sì. Cioè, alla fine... L'episodio del teatro di Rouen avvia l'inizio della terza parte del romanzo, con la catastrofe finale e il drammatico suicidio della protagonista. E qui, appunto, anche l'eroina donizettiana muore in preda alla follia, fondamentalmente. Ma sarà un caso? Chissà. Dopo aver ucciso il marito, impostole dal fratello, ma questo voi lo sapevate già perché avete sentito la puntata. Per questa scena Donizetti aveva pensato originariamente di utilizzare uno strumento molto particolare, la glassa armonica, e qui c'è tutta la storia della glassa armonica che vi abbiamo già potremmo fatto. Ricominciare da capo. E non ci fate ricominciare sulla storia della glassa armonica, che vero, esemplifica il sentimento della follia, vabbè. Poi a me mi fa venire in mente subito dolci, certo, torte con la glassa. Figurati. Che era stato inventato appunto poco prima della composizione dell'opera di Donizetti da Benjamin Franklin nel 1761. Va bene, io qui vi risparmio il resto, che è tutto molto interessante da questi appunti che ho trovato, però tutto torna a ribadire che la Madame Bovary e la Lucia di Lammermoor ci hanno molto molto in comune, e come la letteratura e la musica classica, di fatto, come vediamo in molti esempi, hanno molto in comune. Allora, e ora proseguiamo, ci mancano tre brani alla fine, alla conclusione di questa scaletta, e ritorniamo su Shakespeare, perché ritorniamo su questa volta non sulla Tempesta, ma la giovane Giulietta, quindi Giulietta e Romeo e Giulietta, Prokofiev. Su cui veramente non c'è da dire nulla. Prokofiev musicò un balletto. Anche qui si ritorna al balletto. Sì, perché a parte che, come voi ben sapete dalle puntate di Shakespeare, le play originali di Shakespeare contenevano dei balletti, che voi non ne sappiate o sappiate, io ve lo ridico. Per cui il balletto fondamentalmente è già parte della tradizione shakespeariana, no? Non è un caso forse che i compositori abbiano spesso tratto dalle opere di Shakespeare musiche per balletto, e che le opere di Shakespeare, oltre che in prosa, siano state presentate in forma di balletto, proprio perché per la loro natura così capace di essere molteplice, di essere ispiratrice di tante forme d'arte, ed è questo grazie alla sua grandezza, alla sua così universalità dei temi, che Shakespeare può prestarsi a veramente mille forme espressive. Anche della lingua, direi. Esatto. Anche la poliedricità. Anche la capacità, cioè se le opere diventano opere letterarie, riescono a diventare balletti, è anche per la capacità di essere diegetiche senza la parola. Quindi, anche se questo sembra una grande contraddizione in termini, in realtà non lo è, perché se io riesco a spiegare col corpo una storia come Romeo e Giulietta, beh, certo, è grazie alla musica. Ma perché è reciproco, perché anche le parole, che in qualche modo sono di per sé stesse musicali, esatto, e quindi ispirano, e qui, la senza musica. Andare al pentametro giambico. E vabbè, ma che ve lo diciamo a fare? Oggi siamo veramente in forma, per cui, nonostante le premesse che ci vedevano malissimo, morte di caldo e di affanni, però invece il vecchio Prokofiev crea questo meraviglioso balletto di cui abbiamo già parlato in molte occasioni, abbiamo dato molti pezzi, la famosa danza dei cavalieri, abbiamo citato insomma molte volte. Qui abbiamo invece un ascolto da La giovane Giulietta, The Young Juliet. Si fa una versione, si dice anche versione ci abbiamo. No, ma io oggi non ho versione di nulla, faccio schifo. Oggi è così, sì. Lo profile va bene, quindi sì, sì. Non si sa, beccatevela. Allora, e ora arriviamo agli ultimi due brani della scaletta. Il penultimo è Handel. Rientro a bomba. Così. Vi toccava. Cioè, oggi veramente non mi sono sdata per niente. No, quindi Handel, l'Alcina, tratto dall'Alcina, vi propinerò l'area di Morgana. Scusate, perché prima Monte Calvo, adesso Morgana, mi sembrava un po' in streghe, Prospero, bla bla bla. Allora, l'aria è Credete al mio dolore, ma l'Alcina come opera, appunto un'opera di Handel sul libretto anonimo, ispirata all'opera L'isola di Alcina di Riccardo Broschi. Chiaramente tratta da un episodio dell'Orlando Furioso di Ariosto, e quindi per questo che ce la faccio rientrare in questa puntata sui libri e sulla letteratura, ma anche qui l'abbiamo visto già per altre opere, insomma in generale Ariosto ispirava molte opere, molte composizioni, ma spesso venivano fatte degli spin-off. Esatto. Su dei personaggi un po' secondari, o perlomeno magari non secondari, ma insomma che non erano i protagonisti. E qui si parla dell'Alcina e in particolare l'aria che vi facciamo ascoltare è l'aria di Morgana, che è la sorella di Alcina. Che ha un ruolo molto importante all'interno di questa opera. E non è che c'ho da dirvi tantissimo, anche perché il tempo è veramente poco. L'unica altra cosa interessante è il fatto che, essendo un'opera settecentesca, quindi immaginatevi, siamo in piano barocco, in piano a sense of wonder, lo stupore, la meraviglia, tutto quello di cui vi ho già parlato anche troppo, qui si parla di magia, si parla di maghe, di streghe e di stregonerie, e quindi c'erano numerosissime scene di magia in cui si richiedevano moltissimi macchinari e impianti scenici efficaci, particolari e grandi effetti visivi, uditivi, eccetera. Questo fa sì che io, un giorno in cui inventeranno finalmente la macchina del tempo, la DeLorean, chiaramente sarà... Tiriamo fuori la DeLorean, Mari, mi porto a fare un giro, non ti preoccupare. Esatto, io lì entrerò, ve lo dico, cioè entrerò nella DeLorean e finalmente andrò a vedere a teatro questa Alcina, o comunque qualche opera di Handel, perché questi macchinari mi sarebbero piaciuti tantissimo. Allora, i macchinari meravigliosi, ora non si sta a riaprire il pippone sul macchinario meraviglioso, sulla macchineria del barocco, perché se io ho riascoltato, l'altro giorno che non riuscivo a dormire, non peccati veri, ho riascoltato la nostra puntata su Passion, Power and Politics, che era stupenda, ora non voglio così, però... Chi si loda si imbroda, lo so, però a proposito di questo avevamo parlato proprio del momento della mostra, no? E ti raccontavo, ti ricordi Mari, quando sono passata davanti a questa sala con le opere di Handel e c'era proprio il teatro ricostruito, il teatro barocco con tutte le macchinerie, e faceva vedere questo perché è stato un momento per il teatro molto molto importante da questo punto di vista, dal punto di vista tecnico. C'erano già state ovviamente delle grosse invenzioni già dal Rinascimento, per primi Sangallo, Brunelleschi, insomma, avevano creato degli stupori, delle macchinerie, ma è nel barocco che questo assume una caratteristica importante, fondante, e proprio per il senso della meraviglia, del senso of wonder che il barocco doveva sempre restituire. E quindi lì, appunto, proprio per l'opera di Handel che veniva messa in mostra, facevano vedere proprio come funzionava il teatrino. C'era proprio una riproduzione di un teatro barocco con tutte le onde che si muovevano, boh, che e le navi che si spostavano su. E l'aria era, ti ricordi, venti turbini. Bella, bella, bella, stupenda, bella. Cantata, che era in origine cantata da Farinelli. Vabbè, autocitazioni a bomba oggi, quindi praticamente abbiamo fatto un bignami di noi stessi. Sì, sì, appunto, chi si loda si imbroda. E va bene, quindi arriviamo a Handel, sì. E all'aria di Morgana, appunto, che altrimenti detta, credete al mio dolore. Thank you. Che bello, che bello. Eh beh, sì. Abbiamo finito, cioè abbiamo l'ultimo brano che è, vi lasciamo con un po' di allegrezza, che è un'altra danza, la danza della fata confetto, tratta dalle schiaccianoci di Tchaikovsky. E qui questo è il mio, va bene, un po' per uno. Un po' per uno non fa male a nessuno. Che dire, dello schiaccianoci abbiamo già parlato, avevamo anche accennato, mi sa, già nella prima puntata, o sbaglio, non mi ricordo di questa serie, chi lo sa. Oggi proprio non sì, sarà accennato. Non ce la possiamo fare. Però anche qui come dire, il rapporto con la letteratura è strettissimo. Perché prima di essere balletto e quindi essere nota come balletto, perché fondamentalmente anche tanto il balletto ha portato fortuna a questa opera letteraria, qui è un po' forse il contrario, no? Qui è un po' il balletto che ha trainato tutta la tradizione che poi ha ridato fortuna all'opera letteraria, chissà. Penso è un po', perché comunque tanta gente lo conosce come un balletto e non sa che era un'opera letteraria. Quindi, come dire, Schiaccianoci vale doppi punti anche per Schiaccianoci, doppia citazione, perché è un libretto, il libretto è tratto dal racconto di Hoffman, di Eta Hoffman, ma non nella sua forma originale, perché era troppo cruenta, troppo violenta. Ma si sa che facevano sti topi, non lo voglio sapere. Il racconto è in realtà ripreso dal libretto, scusate, il racconto è in realtà, il libretto appunto dell'opera di Tchaikovsky è in realtà ripreso dalla versione di Alexandre Dumas. Quindi Dumas fece una sua versione, no? Una riproposizione del racconto di Hoffman dal tono più leggero, più appunto, beh, direi, perché Eta Hoffman e Dumas c'avevano sicuramente delle grosse differenze, ognuno con i suoi pregi, però sicuramente due scrittori completamente diversi. Quindi, come dire, è chiaro che probabilmente la versione di Dumas si prestava più a essere così trasformata in un libretto per balletto. Anche qui di nuovo una grande opera che non ha bisogno di essere per forza tradotta in prosa, ma che può esternarsi, che può trovare una sua forma proprio nell'arte espressiva, nel balletto. Non sto a rifare la sinossi di Schiaccianoci, perché la sappiamo, la risappiamo, la strasappiamo, cioè abbiamo fatto una puntata sopra e ve l'andate a risentire, che è una puntata molto carina. In breve appunto si svolge durante la notte di Natale, Clara riceve lo schiaccianoci come regalo, un giocattolo che è uno schiaccianoci appunto dallo zio, lo zio mago, anche qui un mago, insomma, cioè sempre ci mette lo zampino. Alla mezzanotte si anima, tutti i giocattoli si animano, lo schiaccianoci si anima e intraprende una sanguinosa guerra contro il re dei topi e il suo esercito. Dopodiché trasporta Clara in questo mondo fatato dove, ahimè, tutto è fatto di zucchero, di dolci, di panna montata, dove la neve è cocco glassato e dove io me lo sono sognato tutte le notti. E forse, chissà, la mia dipendenza da zuccheri è colpa di quello. È colpa dello schiaccianoci. Diciamola così. L'opera di Tchaikovsky è stata riproposta a sua volta in mille versioni diverse, non vi sto a rifare la storia del balletto perché appunto è troppo lunga, di nuovo autocitazione in fantasia, perché Tchaikovsky è uno dei pezzi da cui Disney trae la sua ispirazione per fantasia, e però lo trasforma in un qualcosa di completamente diverso, quindi non si rifà all'iconografia del balletto, ma si rifà a un mondo naturale fatto di fiori, di frutti e di funghetti danzanti, e lasciamo fare. E quindi ecco, un'opera che ha continuato a ispirare generazioni e versioni e tantissime forme d'arte, un bellissimo libro di Maurice Sendak tratto dai racconti di Eta Hoffman, che sono poi, Maurice Sendak fece le scenografie per il balletto di Philadelphia, di cui abbiamo parlato durante la puntata, quindi illustratori come Sendak, pittori, costumisti, disegnatori di cartoni animati, non solo fantasia, ma c'è proprio un cartone animato di Don Bluth proprio sulla storia di Schiaccianoci, molto carino. Insomma, vabbè, ha mille, addirittura ne uscirà ora, ma a Natale prossimo uscirà una versione con gli attori, mezzo live, come si dice, no? Digitale, con Ellen Mirren che fa la regina dei topi, Keira Knightley che fa la fata confetto, e vabbè, voglio vedere cosa ne fanno. è stato riproposto, insomma, in mille altre versioni, ha ispirato tantissime generazioni di artisti. E un balletto, appunto, che è rimasto celeberrimo. Storia. E qui abbiamo un ascolto che è La danza della fata confetto, nel più classico degli stili. E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima. Prima di questo vi ricordo che non l'ho fatto, i social Wombat, wombat.noblogs.org il sito, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net. Noi ci potete ascoltare tutte le domeniche pomeriggio intorno alle 6 se siamo puntuali, o un pochino dopo se ci fanno distrarre. A presto, a domenica prossima. Ciao a tutti. Ciao. Thank you.